4 anni fa, in questa ora appunto, alle 10, noi con i miei amici eravamo 11, quelli che conoscevo, e poi eravamo tutti 115. Abbiamo preso gommoni, abbiamo appoggiato e siamo arrivati. Però abbiamo perso questo gommoni, sperando davvero la libertà dell'altra parte del mondo, dell'altra parte del mare, perché non sapevamo, cioè come ci hanno fatto vedere al TV, alla radio, tutti qua, che c'è la democrazia, c'è la libertà, se uno ha un problema, fugge dalla guerra, si trova la libertà qua. Quindi poi dopo, quando abbiamo giunto all'altra parte del mondo, che è l'Italia, grazie a Dio ci hanno accolto la struttura, quello è vero, e in guardia costa ci hanno anche preso, abbiamo fatto 3 giorni sul mare. E poi dopo ne ha avuto subito i fenomeni, il clima, no? Che era molto antisociale. Subito abbiamo creato l'associazione per iniziare a battere, a andare, perché tanti, alcuni sono morti qua, dovuto andare a Cona, a smaltire il Campo Grande, e da lì e poi così fino ad arrivare. Però Salvini con le altre persone, con Meloni, con, non voglio dire tutti i nomi, hanno preso questo fenomeno per fare impaurirsi dei gente, per poter trovare il voto, no? E poi hanno giunto il loro obiettivo, nel senso che è arrivato al punto di prendere un decreto che è passato e è diventato una legge che colpisce noi migranti, che ha questo documentino, quando lo perderà colpa di una legge di Salvini, e si troverà qua nella clandestinità, perché Salvini non riuscirei a firmare accordi con nostro dirigente. Anche lui nel passato ha detto delle parole sbagliate ai nostri dirigenti africani, e gli hanno chiesto di scusarsi. Salvini non si è scusato. Quindi, essendo questo qua, nessuno firmerà l'accordo di rimpatrio. L'obiettivo è di fare una campagna, di fare un'altra pre-campagna per l'estate. In estate ci sarà tante, l'effetto di questo decreto arriverà fuori, e sarà tanti fuori, e lì sarà di dire: ecco qua, sono venuto qua, delinquenti sbarcano, tutti quanti. L'obiettivo è di fare un'altra pre-campagna per un'altra elezione prossima. Quindi noi tutti dobbiamo capire questo evento. Io sono più importante. Io, come migranti, che mi impegno, faccio il mio lavoro, paghi il mio affitto, fate tutto questo qua, più te, Salvini sta appiando su di noi di togliere un po' i diritti a noi, e poi piano aggiunge un periodo, come è passato da Mimmo Lucano, passerà con un altro italiano, passerà con un altro dirigente, e toccherà a tutti. Assumere 8.000 poliziotti non è la soluzione. Invece di investire nell'esercizio, investite nel sociale. Quando una persona esercita nel sociale, le persone vanno lì ai servizi, cercare lavoro, a sistemare, a fare le formazioni. Questa è una società che è molto importante, che prende tanti poliziotti, perché se si prende tanti poliziotti andiamo verso l'autoritario. Quando andiamo verso l'autoritario non va bene per nessuno, cioè nessuno può esprimere democraticamente. Tra l'altro questa sera appunto c'erano 2 poliziotti in assemblea. Sì. Cioè, l'obiettivo è quello di intimidare la gente, no? La gente che vuole parlare, la gente che vuole dire il contrario, il suo punto di vista, quindi di intimidare. Anche l'obiettivo è di dire: immagini che i ragazzini si mettono i poliziotti davanti alla scuola di ragazzina adesso, cosa significa? Dove va con questa idea? È di fare paurire questo poliziotto con la maglietta. L'obiettivo è quello, no? Invece di fare paura alle gente, devi parlare con le gente. Non fai paura, noi abbiamo visto quelle lì in Africa, che abbiamo, se tu parli così, 2 poliziotti vieni, prendi, ti menano, poi no. Io sono passato in Africa e ho visto lì, si picchiavano per educarci. Quello è il sistema di autoritario, e questa l'idea di mettere poliziotti è uguale a quelle lì. Invece qua si parla con la figlia, si parla con il figlio piccolo per fare capire, è il modo sociale, invece di fare la repressione, di dirigere verso la repressione, cioè, ci porta dove? Visto che sei partito dalla tua storia, appunto nel frattempo in questi 4 anni c'è stato il decreto Minniti, ora il decreto Salvini, tu dicevi quando sono arrivato comunque sono riuscito a entrare nell'accoglienza, pensi che adesso, se tu invece di partire 4 anni fa fossi partito adesso, a livello legale proprio di accoglienza, avresti trovato le stesse cose in Italia? No. Cioè, se sono tutte condizioni, no? Che la legge di decreto impone, anche se uno entra lì e preferisce di lasciare, perché dopo 2 anni senza servizi, senza la residenza, non puoi fare nulla. Cioè è un ghetto che lui sta formando. In modo, prima io non apprezzavo, perché ho lottato contro prima il governo del PD nel loro sistema, hanno cantonato noi dentro senza alcuna tipologia, però era meglio di staccare tutti, tanti tanti accoglienza, no? Che di mettere tutti insieme. Se metti tutti le persone insieme, ci sarà qualche operatore lì che lavorano. E questo qualche operatore non riusciranno a assicurare la scuola, la sanità, tutti quanti. Però se ci sono i singoli cooperativi, 6 ragazzi, 10, tu sei la mia operatrice, ho contatto diretto con te, che è l'operatrice, anche meno impegno per te. È molto facile per me di integrarmi subito alla società italiana, che se siamo in 400 con 2-5 operatori, cioè non c'è nessun modo. Quindi questo sistema è molto sbagliato, cioè di concentrare lì non va bene. Dopo questo qua si viene la depressione perché non fate niente, e poi è un gran casino.